Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. High up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear. Buongiorno, buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, o se preferite per una società non violenta. Questa è la puntata numero 462 nella quale parleremo di animalità liberata, mattatoi dismessi, questioni di corna e il ritorno di Dentone. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Everything's dissolving, babe, just a code in the plane. Oh, yeah, yeah. The sky's on fire, the dead heaped across the lane. Oh, yeah, yeah. I went to bed last night and my Morocco got jammed. Woke up this morning with a frappuccino in my hand. Oh yeah, yeah. Siamo abituati a dare sempre cattive notizie, perché quando si parla del mondo animale, purtroppo le cattive notizie sono la stragrande maggioranza delle notizie, per cui quando ne abbiamo finalmente una positiva, desideriamo darle tutta l'importanza che merita. La Corea del Sud ha demolito il suo più grande macello per cani, un durissimo colpo contro il commercio di carne di cane che in quel paese tarda a declinare come vorremmo. Il consiglio comunale di Seongnam, nella provincia di Gyeonggi, ha raso al suolo con una ruspa molto salviniana Taepyeong, un luogo dove 80.000 cani venivano uccisi ogni anno mediante elettrocuzione per il commercio illegale, ma purtroppo ancora molto fiorente, della carne di cane. L'elettrocuzione o folgorazione causa la morte applicando una forte scossa di corrente elettrica attraverso il corpo. L'applicazione di corrente elettrica al corpo umano, come sappiamo, è una forma diffusa di tortura che viene ritenuta particolarmente efficace perché non lascia traccia di lesioni esterne sul corpo della vittima e quindi rende difficile dimostrare questo crimine. Nel caso dei cani, sia a scopo alimentare sia per poter utilizzare la loro pelliccia, non lasciare segni è ovviamente consigliabile. La corrente viene somministrata ai cani attraverso due elettrodi. Uno gli viene messo in bocca, l'altro viene inserito nell'ano dell'animale. Lasciamo a voi ogni altra immaginazione. L'associazione che si può accreditare questa bella vittoria, la chiusura del grande macello coreano, si chiama Human Society International, acronimo HSI. Abbiamo compiuto sforzi costanti per chiudere il mattatoio di cani Taepyeongdong attraverso indagini e facendo pressioni sulla provincia di Gyeonggi, ha detto così Yuni Kim, avvocato che si batte per i diritti degli animali della Corea. In Corea del Sud i cani sono abitualmente allevati per il consumo umano, esattamente come i maiali qui da noi. Ci sono dati contrastanti sul numero di cani allevati in tutto il paese, ma le stime contano circa 2 milioni di cani che vengono ancora detenuti in circa 17.000 strutture. Rabbrividisco nel pensare a quanti milioni di cani meravigliosi hanno incontrato il loro orribile destino in questo posto nel corso degli anni, ha detto così Nara Kim di Human Society International. Era una macchia sulla città di Seon Nyam e siamo molto contenti di vederlo spianato. Sebbene le bancarelle dei mercati vendano ancora carne di cane e sebbene il 51,5% dei coreani, dei sudcoreani, sia contrario all'idea di vietare la carne di cane, le cifre del governo mostrano un aumento di cani anche come animali da compagnia in Corea del Sud. La convivenza con i cani è passata dal 17,9% nel 2012 al 28,1% nel 2017 e il numero di negozi di toelettatura per cani, sono questi semplicemente degli indicatori naturalmente per capire quanto si stia diffondendo la convivenza tra umani e cani, è raddoppiato da 2015 nel 2012 a 4670 nel 2016. Insomma, non sembra esistere una terza scelta, una libertà fine a se stessa per i cani. Sembra proprio che i cani, come anche altri animali, possano esistere solo in quanto o cibo o compagnia per noi umani. È ancora evidentemente troppo difficile immaginarli a vivere senza di noi o a prescindere da noi. Dall'approccio umano, utilitaristico e interessato nei confronti degli altri animali, a volte sembra proprio che non si riesca ad uscirne. Eppure esistono e cominciano a farsi sentire voci nuove e interessanti nel mondo accademico, negli animal studies e anche all'interno della galassia degli operatori delle relazioni antrozoologiche, in particolare degli etologi. Un personaggio in questo senso che ci ha colpiti molto e che abbiamo volentieri conosciuto, incontrato e intervistato per Restiamo Animali si chiama Francesco De Giorgio, classe 1965, biologo, etologo, naturalista e attivista esperto di cognizione ed etica animale. Si è laureato con il professor Danilo Mainardi a Parma, Francesco De Giorgio, e poi ha intrapreso un percorso di studio e di ricerca indipendente, interrogandosi su come l'umano, anche egli animale, si relazioni davvero con gli altri animali. Ha scritto Dizionario Italiano Cavallo 2010, Comprendere il cavallo nel 2015 e quest'anno, 2018, Nel nome dell'animalità di cavalli, cani, umani e altri animali. Vive in provincia di Savona con cavalli, capre, cani, un gatto e sua moglie José. Francesco De Giorgio, un concetto che mi ha colpito è quello che tu definisci il sindacalismo animalista, cioè quella forma di welfare animalista che entra in gioco quando gli animali ci fanno del bene o compiono delle buone azioni verso di noi. Hanno quindi un ruolo sociale percepito come positivo, per esempio i cani per ciechi, gli asini per la raccolta differenziata dei rifiuti, i cavalli per l'ippoterapia ai bambini autistici e così via. Oggigiorno l'interesse verso gli animali viene spesso mediata da un'ideologia secondo la quale l'animale può essere valorizzato solo quando esprime e porta con sé una certa utilità per una non meglio precisata società umana. Questo poi porta dietro tutta una serie di paradigmi, da quelli welfaristici, cioè di benessere inteso benessere fine a qualcosa, fine a una funzione, ha poi tutta una serie di attività in cui l'animale deve dimostrare di essere valido per questa sempre non meglio precisata società, di essere utile a questa società, pena l'esclusione. Cosa assolutamente fatti non veri, perché dover subire un abuso pur e ancora restando in una società significa disintegrare comunque l'animalità. Quindi più che un processo di integrazione dell'animalità è un processo di disintegrazione della stessa, un processo in cui i pensieri animali vengono disintegrati, le esigenze animali vengono disintegrate, ma anche l'etologia viene disintegrata. Francesco De Giorgio, ci puoi parlare del concetto di coesistenza che spesso proponi? Per me il concetto di coesistenza è molto connesso con il fare esperienze insieme, con il vivere insieme, con portare avanti atti di brigantaggio cognitivo insieme. Significa essere complici insieme, significa essere insieme ma allo stesso tempo essere emancipati l'uno dall'altro. Noi siamo abituati che nelle relazioni creiamo situazioni di dipendenza, ma è proprio quando cresce la dipendenza che cala la relazione e quindi la coesistenza, il coesistere insieme. Mentre invece è l'emancipazione che diventa promotore di coesistenza. Quindi non appiattimento sulle istanze dell'altro, ma valorizzazione dell'altro, non attraverso una funzione, ma attraverso il semplicemente essere. In alcune interviste ti ho sentito parlare di tre tipi di esigenze animali, quelle specie specifiche, quelle collettive e quelle di gruppo. Ci puoi spiegare meglio queste tre differenti esigenze? Sì, parlare di esigenze specie specifiche, cioè di quello di cui ha bisogno un animale appartenente a una determinata specie, è per me una base di partenza ma non di arrivo, mentre invece, soprattutto negli ambiti scientifici, negli ambiti etologici, viene vista come una sorta di destino, di destinazione, di arrivo, di comprensione. Per me la base di arrivo è invece la soggettività, è il superare il concetto di specie e l'andare oltre il concetto di specie e andare a osservare quell'animale, quel cane, quel cavallo. Cioè parlare di cavalli è fuorviante, esiste quel cavallo. Dire che un cane deve incontrare suoi simili è fuorviante. Quali simili? Cosa significa simili? Dire che un cavallo ha determinate specifiche esigenze sociali e quindi va socializzato può essere un rischio per l'animalità del cavallo, di quel cavallo, in quel contesto, in quella relazione, in quella situazione. Quindi per me punto di partenza e di arrivo è la soggettività, punto di partenza e di arrivo e l'animalità. Tutto il resto è contorno, spesso è proiezione antropocentrica, ancor più spesso è una proiezione specista. poche parole con questa voce d'oltretomba. Oggi uno spazio cinematico affidato alla musica di Luke Howard, un compositore nato a Melbourne nel 1978. Nell'ultimo album ci sono ben due brani dedicati alla storia dell'orso. Howard dice che il pezzo era stato concepito per un documentario su un santuario di orsi che si trova in Russia. Poi però per vari motivi il brano non è stato utilizzato. Forse perché è troppo cupo e gli orsi in quel santuario erano molto felici. In realtà il brano ci fa pensare che possa accompagnare delle immagini. Ve lo propongo, buon ascolto. La buona notizia della Corea, andiamo in Egitto e creiamo un ponte tra questi due paesi. L'ala egiziana del Liverpool, il calciatore Mohamed Salah, ha diffuso un tweet per sostenere i diritti degli animali. Questo in seguito alle voci secondo le quali l'Egitto intenderebbe esportare cani e gatti randagi nei paesi in cui vengono mangiati. Salah ha pubblicato una foto con i suoi due gatti e ha commentato: "I cani e i gatti non verranno esportati, non accadrà e non può accadere". Il portavoce del Ministero dell'Agricoltura, Hamed Abdel Dayem, ha negato le accuse degli animalisti, ma la scorsa settimana lo stesso Abdel Dayem aveva dichiarato che il Cairo aveva autorizzato l'esportazione di 4.100 cani e gatti randagi in altri paesi. Il timore degli animalisti è che i randagi vengano venduti alla Corea del Sud nel tentativo di rilanciare l'economia malata del paese. Salah sostiene da sempre i diritti degli animali e ha pubblicato molte foto con i suoi gatti. Oggi ci sentiamo proprio in vena di buone notizie. Il 22 novembre 2018 il castoro è stato avvistato a Tarvisio dopo oltre 450 anni di assenza nel territorio italiano. La scoperta è sensazionale se si considerano la plurisecolare assenza dal nostro territorio e anche il ruolo chiave del castoro nel creare le condizioni ideali per un incremento della biodiversità nelle aree fluviali. Il castoro era scomparso da 450 anni e il motivo della sua scomparsa in Europa è stato da una parte l'utilizzo delle sue carni e delle sue pelli e dall'altra l'elevato valore del castoreum, un olio prodotto dalle sue ghiandole. L'unguento veniva utilizzato nell'industria dei profumi e si riteneva che avesse proprietà medicamentose. Insomma, il castoro è stato sterminato a scopo commerciale, un altro fiore all'occhiello della società umana. Ma ecco che in questi giorni un castoro, forse austriaco, forse sloveno, ha fatto capolino nella foresta di Tarvisio in Friuli, corridoio faunistico di grande rilevanza. La scoperta è avvenuta appunto quando un cacciatore e un forestale hanno notato, come riporta il Messaggero Veneto documentandolo con un video, delle strane rosicchiature sugli alberi. Così, da questa segnalazione, si è avviato un iter scientifico per capire se davvero si trattasse di questo grande ritorno. Un gruppo di ricerca dell'Università di Torino lo ha immortalato con delle trappole videofotografiche. Se funzionerà come con i lupi, il castoro verrà protetto per qualche anno, poi verrà dichiarato nocivo, sempre secondo criteri rigidamente utilitaristici, e nuovamente sterminato. Quindi, castoro, pensaci bene prima di installarti in Italia e tanti auguri. Questa settimana la rubrica di cucina Il pasto gentile è curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni ed è a tema. Andiamo in Corea, dove si mangiano anche i cani, ma sarà consentito assaggiare solo piatti coreani non violenti, cruelty free. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi ci fa viaggiare direttamente in Corea. Un piatto semplice, veloce e molto gustoso. I pajeon. Perdonate la pronuncia, ma il mio coreano è un po' arrugginito. Un incontro fra i pancakes e una frittata. Io ve li propongo in una versione classica con cipollotti verdi freschi, ma potrete aggiungere tutte le verdure che vorrete. L'importante è che siano tagliate finemente e cotte molto rapidamente a fuoco vivo. Gli ingredienti per 4 persone sono 5 cipollotti verdi freschi, 120 g di farina di frumento, 40 g di farina di riso, 180 ml di acqua ben fredda, un pizzico di zucchero di canna, un cucchiaino di sale, un peperoncino piccante fresco, 100 g di farina di ceci e olio per friggere. Per la salsa di accompagnamento, 2 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaino di malto di riso, mezza cipolla tritata finemente, un peperoncino fresco piccante e un cucchiaino di semi di sesamo tostati. Preparate una pastella amalgamando la farina di frumento e quella di riso assieme all'acqua fredda. Aggiungete lo zucchero ed il sale. Lavate i cipollotti e tagliateli in 3 parti, compreso il gambo verde, in modo da ottenere dei cilindri lunghi 4-5 cm. Disponeteli a rettangolo in una padella antiaderente con dell'olio ben caldo. fate rosolare per pochi secondi, quindi coprite il tutto con la pastella facendola colare sui cipollotti a zigzag. Fate dorare bene a fuoco medio e nel frattempo stemperate la farina di ceci con acqua, fino ad ottenere una pastella liscia e non troppo densa. Aggiungete un pizzico di sale ed un filo di olio. Tagliate il peperoncino fresco a rondelle e disponetele sopra i cipollotti prima di girare la frittella. Versate la pastella di farina di ceci sopra il tutto e a questo punto rivoltate al volo con un colpo deciso del polso oppure con l'aiuto di una spatola. Fate cuocere sull'altro lato sempre a fuoco medio. Il risultato deve essere croccante fuori e morbido dentro. A parte stemperate il malto di riso con la salsa di soia e l'aceto. Unite la cipolla tritata finemente, il peperoncino a rondelle e i semi di sesamo. Servite i pajon caldi accompagnando con la salsa al sesamo. E per bilanciare il clima euforico di questa puntata e tornare a regime, chiudiamo con una cattiva notizia. In Svizzera è stato bocciato il referendum che chiedeva di dare incentivi economici ai contadini che decidevano di lasciare le corna ai bovini e alle capre dei loro allevamenti. L'iniziativa prevedeva di modificare la Costituzione e quindi, per passare, doveva ottenere non solo il sì della maggioranza degli elettori, ma anche quello della maggioranza dei cantoni. In 17 cantoni su 26, però, hanno prevalso i no. L'iniziativa si chiamava Per la dignità degli animali dal reddito agricolo, iniziativa per le vacche con le corna, ed era stata promossa dal gruppo Horn Q di Armin Kapaul, letto così come si scrive, un contadino della zona di Berna che gestisce una piccola azienda agricola. I promotori del referendum avevano sostenuto che la decornazione è un intervento molto doloroso per gli animali, oltre a privarli di una parte del corpo che serve per comunicare e svolgere molte altre funzioni. I contrari dicevano invece che non c'erano prove scientifiche per dimostrare questa teoria. Il governo e il Parlamento svizzero si erano espressi contro il referendum. Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 463 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.